Quindi lotta all'evasione fiscale e all'illegalità, non solo per aumentare il gettito, il che non guasta, ma anche per abbattere le aliquote. Questo può essere fatto con efficacia prestando particolare attenzione al monitoraggio della ricchezza accumulata, ho detto monitoraggio, della ricchezza accumulata e non solo ai redditi prodotti. Occorre ulteriormente abbassare la soglia per l'uso del contante, favorire un maggior uso della moneta elettronica, accelerare la condivisione delle informazioni tra le diverse amministrazioni, potenziare e rendere operativi gli strumenti di misurazione induttiva del reddito e migliorare la qualità degli accertamenti. Intendiamo riesaminare il peso del prelievo sulla ricchezza immobiliare. Tra i principali paesi europei, l'Italia è caratterizzata da un'imposizione sulla proprietà immobiliare che risulta al confronto particolarmente bassa. L'esenzione dall'ICI delle abitazioni principali costituisce sempre nel confronto internazionale una peculiarità, se non vogliamo chiamarla anomalia, del nostro ordinamento tributario. Negli scorsi anni la normativa previdenziale è stata oggetto di ripetuti interventi che hanno reso a regime il sistema pensionistico italiano tra i più sostenibili in Europa e tra i più capaci di assorbire eventuali shock negativi. Già adesso l'età di pensionamento nel caso di vecchiaia, tenendo conto delle cosiddette finestre, è superiore a quella dei lavoratori tedeschi e francesi. Ma il nostro sistema pensionistico rimane caratterizzato da ampie disparità di trattamento fra diverse generazioni e categorie di lavoratori, nonché da aree ingiustificate di privilegio. Non certo con la supponenza di chi, considerato tecnico, venga per dimostrare una asserita superiorità della tecnica rispetto alla politica. Al contrario, spero che il mio governo e io potremo, nel periodo che ci è messo a disposizione, contribuire in modo rispettoso e con umiltà a riconciliare maggiormente, permettetemi di usare questa espressione, i cittadini e le istituzioni, i cittadini alla politica.